ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Il totale dei casi della settimana che si è appena chiusa vede quasi 4.000 contagi in più rispetto alla precedente. Per questo il governo pensa di introdurre nuove misure restrittive nel prossimo DPCM, come le mascherine obbligatorie anche all'aperto, obbligo da estendere a tutto il territorio nazionale. Speranza riferirà domani alle Camere e poi il governo adotterà il DPCM con le nuove misure. Il Premier Conte assicura nessun nuovo lockdown. Il Comitato Tecnico Scientifico indica la sua linea, contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. Secondo gli scienziati sarà necessaria una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale, a cominciare da una stretta sulla movida agli orari anticipati di chiusura dei locali, sino ad un aumento significativo dei controlli. Da valutare nei prossimi giorni l'impatto delle scuole. I casi sono ancora sostenibili, dice il ministro della Salute Speranza, che poi precisa: le priorità sono la scuola e la salute, non il calcio. È con grande circospezione e attenzione che oggi voglio parlare di questa fase dell'emergenza Covid. Mi rendo conto che devo misurare le parole, le virgole. L'attenzione e la sensibilità è fortissima e portare uno sforzo verso un sano realismo è molto difficile, perché la questione è, come comprensibile, affrontata con una grande emotività. Vi faccio il punto. Avete sentito dal giornale radio, si annuncia per mercoledì un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui verranno stabilite delle nuove norme restrittive. Ci sarà la mascherina obbligatoria fuori per tutti, cosa che non era, che era una conquista vedere una persona con la mascherina. Ci saranno degli orari diversi per gli esercizi pubblici, ci saranno delle sanzioni anche molto pesanti per chi trasgredisce alle regole base della sicurezza, quindi evitando gli assembramenti, evitando di stare senza protezione in posti pubblici. Questo è il tema generale. Poi il tema specifico è, lo dico toccando gli elementi che più possono influenzare l'opinione generale, i personaggi noti che via via risultano positivi al Covid. Dal Presidente degli Stati Uniti, che è la notizia più clamorosa, la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato che anche lei si è messa in auto-isolamento. Notizia di poco fa, è stata sconvocata la Commissione Bilancio alla Camera, dove erano all'ordine del giorno c'era il Recovery Fund, ma è stata sconvocata perché? Perché l'ex ministro della Salute, Lorenzin, è risultata positiva al Covid. E mi fa pensare alla dichiarazione dell'onorevole Lorenzin, dice: non so come l'ho presa, probabilmente ai bambini piccoli che vanno all'asilo, perché una persona sta molto attenta, una persona ha sempre proclamato la massima attenzione. Dice: purtroppo sono positiva, ho la febbre, ho il mal di gola, non ho scaricato Immuni perché non riesco a scaricarla nel sistema operativo del mio telefono. Questo mi dà l'idea di una confusione generale, di un si salvi chi può. È inutile che la gente adesso tocca ferro, fa le corna e mi dice: uccello del malaugurio. L'ho visto nei giorni precedenti quando mi sono occupato di questi temi. La sintesi più frequente era di dire: ma cosa vuoi dicendo? Non possiamo morire tutti di fame. Razionalizzando, esiste una trattazione, un racconto di questa emergenza che può essere toccato in due maniere. Cercando per quanto possibile, con gli elementi razionali a propria disposizione, un racconto coerente a quello che sta accadendo, oppure usando una chiave populista a dire: ma sì, stanno esagerando, in fondo che sarà, la vita deve continuare. Io ricordo che nella mia memoria professionale più volte mi è capitato in passato di fare inchieste su luoghi di lavoro, fabbriche in cui c'erano alti tassi di inquinamento, nefasti, mortali, per le persone che ci lavoravano e per le persone che vivevano nei dintorni dello stabilimento, cronache anche recenti. Beh, la chiave fondamentale era: no, continuiamo a lavorare, e in fondo questi sono dati trascurabili, non accertati. Ecco, non vorrei che oggi ci fosse la stessa leggerezza nel trattare questo tipo di problema. Quindi oggi, diciamo, faccio riferimento a due persone che trovo tra le più lucide a aiutarmi a avere degli elementi, elementi che io non ho. In questo momento sono ignorante, più ignorante degli ignoranti, e semplicemente voglio osservare quelli che sono i fatti che stanno accadendo e cercare di farmi un'idea cosa stia accadendo questa mattina, cosa accadrà da oggi a fine settimana. Ci sarà un aumento delle misure di sicurezza, quindi delle nostre paure, quindi dei cambiamenti repentini del nostro quotidiano, o seguiremo questa sorta di vacanza che ci siamo presi da qualche mese, per cui molti possiamo pensare che in fondo non succede qualcosa che tocca a noi personalmente, che accada a noi. 800240024, Nino Cartabellotta, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ricordo Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione GIMBE, gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che è un istituto che promuove l'integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, manageriali, professionali, che riguardano appunto la salute delle persone. Abbiamo sentito Cartabellotta in questi ultimi mesi perché puntualmente la Fondazione GIMBE faceva dei rapporti analizzando i dati. Io leggo un'intervista che lei ha rilasciato al Mattino a Lucilla Vazza ieri, che hanno messo in prima pagina, il titolo è abbastanza inquietante: vanno aumentati i tamponi, rischiamo ospedali pieni se va in tilt il tracciamento. Ecco, lei è possibile, con i dati che ha a disposizione e con la memoria storica dei numeri che lei ha analizzato in questi mesi, non dico fare una previsione, ma cercare di capire cosa possa accadere da oggi alle prossime settimane? Come al solito Gianluca, proverò a essere sintetico e completo. Noi ormai da 9 settimane consecutive osserviamo un incremento settimanale dei nuovi casi si erano attestati, come ho ricordato l'ultima volta che ci siamo sentiti, intorno ai 1400 a fine luglio. Adesso siamo, nostra ultima settimana monitorata, 23-29 settembre, a 12.114, e se guardiamo quello che è successo dal 30 di settembre a praticamente ieri, i nuovi casi sono praticamente già 12.318 e mancano 2 giorni ancora per completare il nostro rapporto. Quindi che cosa significa questo? Significa che noi abbiamo assistito a questo incremento progressivo della curva dei nuovi casi, non solo perché abbiamo fatto più tamponi, questo è accaduto fine primi di settembre perché adesso si sono stabilizzati, ma perché sta aumentando in maniera preoccupante quello che è un indicatore che si chiama rapporto positivi tra casi e su casi testati, cioè qual è il numero di soggetti che sottoposti a tampone sono positivi. A fine luglio erano 0,8%, nell'ultima settimana da noi monitorate erano 3,1, negli ultimi 4 giorni è 3,7. Ma la cosa che è più interessante è che questo è il dato nazionale, ma a livello regionale poi ci sono delle notevoli differenze. Per esempio in Liguria si arriva quasi all'8%, quindi significa che il virus sta circolando in maniera importante, in particolare in alcune aree del paese. Man mano che ogni settimana noi dobbiamo immaginare una sorta di immissario, che è un fiume che arriva all'interno di un lago, questo lago, che è fatto dai soggetti attualmente positivi, quindi quelli che possono anche contagiare gli altri, si sta espandendo in maniera progressiva. Eravamo a 12.000 casi a fine luglio, ieri sera erano quasi 58.000, quindi man mano che l'affluenza dei nuovi casi aumenta, questo lago si amplia sempre di più e questo lago comincia a tracimare. Scusate se oggi mi è venuta in mente questa metafora, diciamo, di tipo lacustre fluviale. Che cosa significa? Sì, mentre mezza Italia sta realmente tracimando, questo è il paradosso. Ecco, quello che sta succedendo è che siccome questo lago aumenta sempre di più, quando gli asintomatici incontrano soggetti fragili aumentano anche i casi ospedalizzati in terapia intensiva, sempre per mantenere lo stesso arco temporale. Fine luglio 40 ricoverati in terapia intensiva, ieri 303, ospedalizzati 732, ieri 3.287. Allora, lei ha a disposizione, Cartabellotta, un modello matematico che possa in qualche maniera darci già un sintomo di previsione, quello potrebbe accadere da qui a un mese, ad esempio? Allora, quello che noi stiamo cercando di capire è, mantenendo quella che è l'attuale tasso di crescita sia dei nuovi contagi sia dei pazienti ospedalizzati che di quelli in terapia intensiva, si vede una crescita che si chiama lineare, quindi che sale senza diventare esponenziale, quindi senza impennarsi, e sale regolarmente. Se questa curva, diciamo, si dovesse mantenere costante, che da un lato ovviamente è alimentata da nuovi contagi, dall'altro da quelli che sono tutti gli interventi che possono essere messi in atto di restrizione, diciamo, si può prevedere che intorno alla fine di dicembre, quindi intorno a Natale, quindi tra circa tre mesi, noi dovremmo, utilizzo il condizionale, avere circa 10-12 mila pacienti ricoverati e 1.000-1.200 in terapia intensiva, perché questo al momento è un po' il rapporto: in terapia intensiva va uno ogni 10 pazienti ricoverati. Però attenzione, perché questa, diciamo, previsione assolutamente, diciamo, prudenziale tiene conto di invarianza di altri fattori, perché se dovessero scoppiare altri focolai, se la situazione dovesse scappare di mano in alcune regioni, o se ci dovessero essere degli interventi mirati di lockdown, no, capite bene che questa previsione può essere vista al rialzo piuttosto che al ribasso. E ovviamente più avanti andiamo con l'arco temporale di riferimento, più il margine di incertezza aumenta. È evidente che se i numeri dovessero essere questi, si tratterà di una situazione assolutamente gestibile, ma se invece i numeri dovessero essere molto più alti, tenendo sempre conto di quella enorme variabilità regionale dei servizi sanitari, la situazione in qualche regione può essere critica. Ribadendo un'ultima cosa, in questo momento non si deve perdere il controllo del virus sul territorio, perché se noi non riusciamo a contenere gli argini di quel laghetto, è evidente che nel momento in cui si scappa quello che è il sistema di tracciamento territoriale dei casi, questo poi si ribalta nelle settimane successive su ospedale e terapie intensive. È una sorta di dinamica ormai talmente chiara che pure i bambini la capirebbero, quindi quando si discute di questi aspetti non riesco proprio a capire, perché ci sono ancora delle persone che immaginano, dice, ma tanto a marzo e aprile è successo tutta un'altra cosa, quella è stata un'esplosione improvvisa. Adesso il monitoraggio progressivo ci sta raccontando una dinamica che ha dei numeri e dei tempi che sono abbastanza regolari in questo momento. Ecco, adesso passo all'altro nostro interlocutore, un interlocutore che abbiamo più volte chiamato, che abbiamo più volte sentito, perché è un altro degli analisti più attenti alla situazione. Professore Enrico Bucci, buongiorno. Buongiorno. Enrico Bucci è un biochimico e professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, autore di Cattivi scienziati, la pandemia della mala scienza, ADD editore. Allora, io a lei rivolgo la domanda più a vasto spettro. Cartabellotta ci ha fatto una analisi sui numeri nazionali, però vorrei riflettere un po' su lei, visto che ha l'occhio anche sulla situazione non soltanto nazionale. Come mai c'è questa difficoltà, che io avverto, e lo dico sinceramente, questo cortocircuito fra chi comunica, la maniera di comunicare, la politica, che molte volte si muove strumentalmente in dubbio rispetto a questi numeri, e poi l'opinione pubblica, che è così facilmente propensa a seguire quello che è il proprio indirizzo, pregiudizio, idea, convinzione. Esiste la possibilità di non rifare gli stessi sbagli che sono stati fatti prima, ma non dico da un punto di vista clinico, da un punto di vista del comunicare esattamente quello che sta accadendo. Allora, io comincerei dall'opinione pubblica, cioè la condizione naturale delle persone è quella di seguire i propri bias e i propri pregiudizi. L'abbiamo più sempre detto, certo. Cioè, se uno legge, che ne so, Defoe, nella sua descrizione, diciamo, il suo diario della peste della fine del Seicento a Londra, trova esattamente gli stessi pregiudizi nelle persone, gli stessi ciarlatani, gli stessi errori di comunicazione, cioè quello che sta avvenendo oggi. E se uno legge in qualunque resoconto, anche tornando molto indietro, trova sempre esattamente lo stesso comportamento dell'opinione pubblica, cioè trova che le persone spaventate hanno un enorme bisogno di informazione, e se questa informazione non è, diciamo, già riconoscibilmente proveniente da una fonte unica e accreditata, si rivolgono in sostanza a chiunque, e non a chiunque in maniera casuale, ma a chiunque conferma le proprie aspettative, in particolare conferma la propria volontà di avere il controllo di quello che sta succedendo. Un modo di avere il controllo di quello che sta succedendo è dire non sta succedendo nulla, cioè dire sostanzialmente va tutto bene, sì c'è il virus ma non ci sono conseguenze gravi, stiamo esagerando, stiamo creando una dittatura sanitaria, eccetera. Questo è un modo, che è il classico modo di esorcizzare i problemi, che serve all'individuo a tranquillizzarsi e quindi a riprendere il controllo della propria vita. Questo modo lo troviamo, è quello che sempre più paga demagogicamente, però in questo momento, se dicessi guardate è tutta una congiura per renderci schiavi, per toglierci la libertà, io ho visto ragazzi per strada assalire la polizia che dice mettetevi le mascherine, al grido libertà, libertà, libertà, gli hanno detto mettetevi, certo, le mascherine. Questo paga soprattutto quando siamo in una fase discendente o relativamente poco visibile dell'epidemia virale, non paga più quando ci sono i morti che vengono portati via dai camion militari da Bergamo, se qualcuno dicesse qualcosa in quel momento sarebbe probabilmente linciato, diciamo, dalla folla. D'altra parte quella che noi chiamiamo la folla in realtà è, diciamo, un'entità multifaria, variegata, con molti volti che emergono a seconda della contingenza. Quindi è chiaro che finché è possibile, cioè finché i numeri sono percentualmente bassi, attenzione, percentualmente non vuol dire in numeri assoluti bassi, come appunto ci faceva intuire il nostro amico Nino Cartabellotta. Quindi finché la cosa è relativamente lontana da me, è chiaro che la via migliore è dire non sta succedendo nulla, io non cambio nulla, continuo a comportarmi, se sono fortunato non mi succederà nulla e sarò sempre più convinto che mi devo opporre a queste limitazioni della mia libertà e del mio cambiamenti del mio comportamento quotidiano. Quindi l'atteggiamento della moltitudine è esattamente quello naturale, quello atteso, che è un atteggiamento difensivo da limitazioni certe di fronte a un rischio incerto o basso, percepito come basso, di infettarsi o peggio di avere delle conseguenze gravi. Allora, questo solo un attimo, la interrompo, non voglio interromperla nella parte clou della sua conclusione, perché devo dare le notizie della borsa. Ci sentiamo proprio fra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Stiamo facendo un punto sull'attualità rispetto alla emergenza Covid-19. Abbiamo al telefono Gianluca, buongiorno. Buongiorno l'ascolto. Allora, io sono la testimonianza evidente, comunque, perché io ho fatto solo zone rosse da quando è iniziato il Covid e ti posso garantire che ho chiamato anche il ministero perché c'era successo un fatto un po' strano. Eravamo sei persone, sei città diverse, sei province diverse, non ci conoscevamo, avevamo gli stessi sintomi sulla pelle e ci dissero di andare in ospedale. Nessuno ci diede una risposta di questi sintomi strani sulla pelle, cioè si formavano tipo, come posso dire, delle creste praticamente esternamente che ti mangiava la pelle e si vedeva proprio il buco dove mangiava, cioè vedevi proprio la parte interna della mano o della pelle. Cioè sì, ma corpo. Cosa c'entra con quello che stiamo dicendo adesso? No, non c'entra, ma questo è uno, però dico anche un'altra cosa. Oltre a questo sintomo, io ho lavorato a Lodi in centro, Lodi Vecchio, Codogno, Rodigiano, ho lavorato per 3 mesi di seguito senza mascherina, ho fatto sempre i tamponi, ho fatto il sierologico, sono sempre stato negativo al Covid-19. Allora mi sorge un dubbio, dico, ma forse se io posso essere l'antidoto per curare sto Covid, prelevatemi il sangue e vedete perché. Perché io ho fatto tutte le zone più pericolose d'Italia. Ma quindi tu dici, sei convinto di essere una sorta di supereroe che ha una immunità particolare? Non l'ho mai preso. Tanta gente non l'ha mai preso. Ho capito, ma sono stato a contatto anche con gente che l'ha preso. Miei colleghi, dove lavoravamo con l'azienda di Verona, Cioè tu vorresti farti analizzare per dire magari io ho una sorta di... Dico, fate questo, magari chissà, può essere, perché no? Vabbè, non so, vabbè, rivolgiti a qualche clinico della tua zona. Questo discorso del Covid-19, perdonatemi, c'è, perché no, come hai detto tu, non siamo noi gli scienziati che possono smentire o meno, però diventa una forma di terrorismo. Perché comunque questo è il punto. Tu ti basi sulla tua esperienza personale, che nonostante le creste di gallo in tutto il corpo, nonostante il fatto che hai toccato, visto tutte le persone, non ce l'hai, dice evidentemente questo non esiste perché non l'ho preso io. Ma ti sembra un criterio applicabile all'umanità al fatto che tu non l'abbia preso? O questo non è semplicemente la tua esperienza personale? Sicuramente, ma c'è anche un'altra cosa da dire, perché comunque tutte le persone che sono morte, perdonami, non hanno dato una prova, uno straccio di prova, non hanno fatto le autopsie, sono state seppellite, basta, cioè prelevati dall'esercito e portati via dall'esercito. Anzi, ti dico, se vuoi raccontarla fino in fondo, quella che è, diciamo, la tesi, li hanno bruciati perché non farlo sapere. Io la vedo così, l'ho seguita dall'inizio fino adesso. Magari le barre erano pure vuote, no? Come qualcuno dice. Ma questo non lo possiamo dichiarare, cioè non lo possiamo dimostrare, però... C'hai il dubbio? Viene il dubbio. Va bene, Gianluca, molto chiaro, molto chiaro. Grazie, buona giornata Gianluca. Allora, Enrico Bucci, abbiamo fatto parlare Gianluca non per stupire nessuno, per far capire come è radicato quello che lei sta dicendo poco fa. Il bias di Gianluca è chiaro, dice: io sono camionista, sono passato attraverso tutte le possibili intemperie, non me lo sono preso, e poi vede, andando a scavare vengono fuori tutte le narrazioni parallele, i morti l'hanno seppelliti, anzi l'hanno bruciati per non farlo sapere, le barre erano vuote, e andando avanti avremmo sentito, non so, sono stati cinesi e quindi una cosa, cioè è tutta una narrazione parallela. Ma come si fa a uscire fuori da questo circolo e essere onestamente razionali e riferire quello che sta accadendo? Allora, intanto è importante sottolineare quello che lei ha appena detto, cioè non solo è una narrazione parallela, ma una narrazione estremamente omogenea tra le persone. Questo è diverso da quello che avveniva in passato, cioè oggi la diffusione, diciamo, di teorie che vengono incontro al desiderio delle persone è, per così dire, omogenizzata e stratificata dopo un periodo iniziale in una narrativa unica. Quindi la narrativa di chi nega che esiste il problema o chi pensa che ci siano dei dubbi o dei problemi, diciamo, retrostanti, tende a diventare estremamente omogenea e quindi ad acquisire anche più forza poi, perché se milioni di persone credono alla stessa cosa, naturalmente questo rende anche più facile il contagio di queste idee in altri milioni di persone. Io devo dire onestamente, è anche divertente vederlo in televisione, per molte volte aumenta gli share, ma questa è un po' una tesi portata anche da Sgarbi quando poi ha creato questa sua sceneggiata, le due mascherine in faccia. Piano, lentamente, in maniera sinuosa, altri molto più accorti lo dicono in maniera più felpata, tende tutto ad accreditare che esista un grande piano di gestione coatta dell'opinione pubblica per non fare le elezioni, per rimanere attaccate alle poltrone, per cui conviene dire che siamo in un'emergenza permanente, quando invece non è vero, dovremmo andare tutti sotto braccio per strada. Ma poi l'ex ministro Lorenzin dice: io ce l'ho e non ho e sono stata attentissima a tutto, quindi è veramente un virus molto insidioso. Se comincia ad arrivare ai piani alti di tutti i palazzi in tutti i paesi, ma lei immagina chi mi ascolta, quali siano i sistemi di sicurezza attorno al Presidente degli Stati Uniti, e tanto è arrivato. Beh, insomma, intorno al Presidente degli Stati Uniti non ci sono stati tanti sistemi di sicurezza per scelta del Presidente. È perché è stato coglione lui, diciamo la verità, perché teoria alla sua salute saranno stati attenti. Diciamo che i sistemi di sicurezza scattano adesso che la sua salute è a rischio, ma questo è il esattamente la dimostrazione che anche il Presidente degli Stati Uniti è figlio del bias, come la maggior parte delle persone che diciamo vengono esposte a una cosa invisibile che non si vede, che non si tocca, e si deve fidare di quello che dicono gli scienziati o i clinici fino a che non gli capita. Ne abbiamo e ne avremo innumerevoli esempi, diciamo, di questa sorta di punizione della hubris umana come nelle tragedie greche. Il punto è però che da noi questo può forse assumere una maggiore gravità che in altri paesi. Abbiamo la capacità umana di suscitare l'invidia degli dèi, quindi l'ira degli dèi, lo dico per chi ci ascolta. Proprio esattamente è la sfida agli dèi. per cui poi si arriva al paradosso che c'è gente che gode perché Briatore o Berlusconi o Trump o altri che è un'altra infamata. Solo un attimo, volevo sentire proprio prendendo il punto un attimo anche richiamare in causa Cartabellotta che ci sta ascoltando. Cartabellotta, si parla nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche di sanzioni, 400 euro, 3.000 euro per chi trovano senza... Ma servono le sanzioni? Anche perché finora quelle applicate non mi è sembrato abbiano avuto un grande potere deterrente. Perché ci si fida del deterrente e non si cerca una linea omogenea di comunicazione, che almeno su questo campo ci sia una sorta di abbassare gli scudi, di area protetta in cui il dibattito acceso della politica, delle contrapposizioni ideologiche, lasci il terreno alla saggezza. Ma guardi, sarò molto franco su questo, perché sia gli studi effettuati su popolazioni diverse per ragioni diverse, sia un po' quello che è accaduto in altri paesi, documentano che senza un'adeguata consapevolezza della popolazione sui rischi del contagio, ma soprattutto anche su quella che è una responsabilità individuale per la tutela della salute collettiva, cioè io devo comportarmi in un certo modo nel rispetto, volendo diciamo tutelare le mie libertà, ma nel rispetto ovviamente di quella che è la tutela della salute collettiva, non andiamo da nessuna parte. I controlli possono essere utili, magari le sanzioni possono scoraggiare, però ecco, anche per richiamare l'intervista che hai citato poco fa, è un po' come bere il brodo con la forchetta, perché è evidente che a fronte di comportamenti che non sono adeguati dal punto di vista della consapevolezza individuale, non può esserci nessuno Stato che con modalità diciamo coercitive può impedire ai cittadini di effettuare determinati tipi di comportamenti. Cioè si annuncia l'esercito per strada, la polizia, i controlli. Il rischio secondo me è che si accredita la linea che ci sia una sorta di nuova dittatura basata sulla paura del virus, che non è così, sono convinto che non sia così assolutamente, almeno dal mio punto di vista. Fermiamoci ancora un istante. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... È arrivato il momento per digitalizzare tutta la tua impresa. Centro Software ha progettato una soluzione ERP unica, completamente integrata, per digitalizzare tutti i processi. CRM, produzione, logistica, supply chain, industria 4.0, qualità, gestione finanziaria, e-commerce, portali, tutto sincronizzato. E la tua azienda lavorerà come un unico vero team. Scopri l'ERP più intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, il miglior ERP per la tua impresa. Melog. Abbiamo sentito soltanto un ascoltatore, un camionista che è passato indenne attraverso il Covid. Sentiamo un altro camionista che ha avuto un'avventura di tipo diverso. Luca, buongiorno. Si abbassa la radio però. Buongiorno. Sì, dai, ti ascolto. Ah, senti, io l'ho preso il Covid, non sono stato fortunato come il mio collega, facendo le zone rosse, sono stato ricoverato 12 giorni in ospedale con ossigeno e flebo, quindi secondo me esiste, bisogna essere fortunati per non averlo preso, molto fortunati. Io porterei un cero alla Madonna se uno crede, se non l'avevo preso nelle zone rosse. Quindi Luca, da esattamente l'altro versante rispetto alla persona incredula, dice io ci sono passato, l'ho conosciuto, l'ho visto. Ma il fatto che mi meraviglia, e mi rivolgo a Enrico Bucci, è il fatto che ancora bisogna in qualche maniera provare l'esistenza. Lo trovo paradossale che ancora occorra provare l'esistenza, che ancora leggo in quel tal luogo c'è stato quel tal convegno, quella persona ha parlato con i suoi lettori, con i suoi fan, con i suoi supporter, e adesso anche lì è diventato un cluster, bisogna stare attenti perché si sta arginando. Quali possono essere, Buccio, quali sono state in paesi magari che hanno avuto una maggior perspicacia e spirito di razionalità per diffondere meglio la comunicazione, la maniera per affrontarlo da oggi in poi, perché il problema comincia oggi, mercoledì ci sarà il decreto del Presidente del Consiglio e poi bisognerà ancora una volta raccontare, senza essere accusati di essere uccelli del malaugurio, senza che se io chiamo Bucce Cartabellotta mi dicano no, ma perché non chiami anche quell'altro professore o quell'altro quasi premio Nobel che dice esattamente un'altra cosa. Ecco, perché in questo caso ci si chiede un pluralismo che, di cui non se ne sente assolutamente il bisogno, Enrico Bucci? È esattamente quello che volevo dire, diciamo, all'inizio, cioè altri paesi hanno una diciamo organizzazione che è deputata alla comunicazione su temi di epidemiologia scientifica, che coordina con il governo questa comunicazione e fa questa comunicazione, la quale oltretutto è estremamente trasparente, cioè si forniscono dati, si forniscono per chi è in grado di capirli i metodi con cui sono stati campionati quei dati e con cui sono stati analizzati ed aggregati quei dati in maniera trasparente, e dopodiché la politica sulla base di quei dati indica quale scelte prende e perché prende quelle scelte, cioè si prende la responsabilità di dire questo è il rischio che la nostra economia vada male, questo è il rischio che le persone muoiano per il Covid, questo è il rischio che il Covid diventi completamente endemico, io faccio questa scelta, cioè la mia scommessa come politica per tutelare gli interessi dei cittadini è la scelta X. Caso tipico, diciamo, di questo processo è la Germania con la Merkel. In Italia invece non esiste questo processo, non esiste né un ente che è unico, che sia devoluto alla raccolta, all'analisi e alla presentazione dei dati. Ne abbiamo una moltiplicazione e abbiamo informazioni difformi e discordanti anche nei numeri, cioè parliamo di cose come se uno va a vedere i dati, per esempio il 25 agosto, si accorge che i dati comunicati al DSS e i dati comunicati alla Protezione Civile differiscono per centinaia di morti in un periodo che non si sa esattamente poi di tempo qual è. Quindi parliamo questo di dà adito naturalmente alle interpretazioni e agli esperti del bar dello sport che possono dire vedi, i dati sono difformi. Sui dati difformi, quando sono dati diciamo ufficiali, è un po' difficile mantenere una posizione sto aspettando da agosto una risposta dal Ministero che ha confermato che esiste il problema, ma non è in grado ancora di spiegare come questo problema possa essere affrontato e come si è prodotto, o forse non vuole, non so se non è in grado o non voglia. L'altro punto è che in questa situazione, cioè in una situazione come questa, a questo punto il cittadino si rivolge all'esperto in cui ha fiducia, se non esiste un'istituzione consolidata in cui avere fiducia, in cui la stessa comunità scientifica possa avere fiducia, a questo punto ognuno si sceglie il suo esperto e lo trova grazie a internet, cioè già grazie al fatto di poterci comunicare direttamente con i social forum. Allora, Cartabellotta, un attimo, un altro argomento di cui si sta parlando in questo momento è diciamo una rettifica, una riforma, un cambiamento del cosiddetto titolo quinto della Costituzione, quello che riguarda appunto i rapporti con regioni e amministrazioni e comuni e via dicendo. Ecco, lei più volte l'ha detto in questa trasmissione, cioè il problema è che poi una volta emanate le regole poi le regioni fanno come gli pare. Ecco, potrebbe essere una strada quella che lo Stato si riappropri di alcune funzioni fondamentali in tema di sanità e dice c'è una parola unica per tutti. Ma il problema reale non è tanto quello di cui non è proprietario lo Stato piuttosto che le regioni, è il problema della cosiddetta legislazione concorrente, perché l'articolo 117 affida ad entrambe quello che dovrebbe stare sotto l'alto concetto di Repubblica, a cui l'articolo 32 affida la tutela della salute. Quindi da un lato lo Stato, il governo assegna le risorse e definisce quali sono i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni sanitarie che gratuitamente o dietro il pagamento dei ticket devono essere offerte ai cittadini. Dall'altro le regioni si occupano di fare l'organizzazione e l'erogazione dell'assistenza. Dove sta il problema? Che a mio avviso non è necessaria, peraltro non l'abbiamo accettata, una riforma costituzionale, ma lo Stato deve potenziare quelle che sono le capacità di indirizzo e verifica delle regioni, cioè se le regioni non erogano determinate prestazioni o se ne erogano alcune in maniera anomala, penso per esempio all'enorme quantità di parti cesarei che si effettuano in alcune alcune regioni del centro-sud, non può continuare a distribuire le stesse risorse. Cioè, dobbiamo immaginare un padre con 21 figli a cui viene distribuita una paghetta che deve essere utilizzata in maniera omogenea per tutelare la salute delle persone. Tutte le differenze in termini di accesso ai servizi, di soddisfazione dei cittadini, di erogazioni pubblico-privato della prestazione, devono essere appianate, ma per fare questo ci vuole un potenziamento delle capacità dello Stato e del Ministero della Salute, di tutti gli enti e gli organi, gli enti vigilati, quali l'AIFA, ma non trova che pensarci adesso forse un pochino tardi, tanto più che ci sono governatori fortissimi del fatto che sono stati eletti, hanno avuto un grande consenso, che diranno mai, diciamo, ci pensiamo noi, visto che il popolo ci ha scelto in maniera così massiccia. Siamo in un momento un po' difficile in cui è difficile per la politica come organizzata adesso affrontare in maniera razionale e intelligente questo problema. Questa è la mia impressione. Sconfessatemi se sono esagerato. È così, io diciamo la invito, come ho fatto con tanti altri giornalisti, a utilizzare il termine presidente di regione. L'Italia non è una repubblica federale, l'unica persona che ha la qualifica di governatore in Italia è quello della Banca d'Italia. Anche questa narrativa diversa su quella che è la qualifica del presidente del Consiglio regionale la dice lunga su quanto oggi si voglia in qualche maniera rendere autonomi, e le istanze sul regionalismo differenziato sa bene che sono andate in quella direzione. Ma questo è un problema fondamentale, perché ora quando arriveranno i soldi del recovery fund piuttosto che del MES, le modalità di riparto tra le regioni sarà un problema, perché è evidente che se non c'è un pieno accordo, una piena sintonia, quella che viene chiamata leale collaborazione tra Stato e regioni per tutelare la salute delle persone, diventa poi acceso scontro politico, e questo scontro si scarica sulle fasce più deboli della grazie popolazione. Grazie Nino Cartabellozza, grazie Enrico Bucci. Noi abbiamo iniziato a raccontare per quanto possibile in termini razionali quello che è molto difficile affrontare razionalmente. Alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.